Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Continuano le mie passeggiate napoletane. Nelle scorse puntate siamo stati a vedere le grandi regge e i grandi palazzi di Napoli. Adesso entriamo in luoghi singoli, anche piccoli, ma che nascondono strepitosi capolavori, come la cappella gentilizia della famiglia dei Sansevero, al cui interno si conserva una delle statue più famose al mondo, il celeberrimo Cristo velato di Giuseppe San Martino. Questa scultura è una scultura strepitosa perché illustra appunto il corpo di Cristo, è in marmo di Carrara, steso su un materasso molto verosimile, e questo corpo di Cristo è coperto da un velo trasparente. Tutto quanto però è fatto in marmo. Siccome il committente di questa statua, il principe Raimondo de Sangro, principe di Sansevero, era un alchimista e una specie di inventore, pensate che aveva lavorato per inventare la luce perpetua, cioè aveva già in mente la lampadina elettrica, aveva fatto credere, per questa naturalmente è una leggenda, di aver escogitato una ricetta per cui sopra questa statua di marmo era stato steso un velo vero e poi attraverso un principio alchemico c'era stata la trasmutazione dalla stoffa nel marmo. Naturalmente tutto ciò non è vero, perché nel pagamento lo stesso principe paga allo scultore la statua in marmo, tutta in marmo. La cosa singolare è che questo San Martino è celebre solo per questa statua, perché sfido chiunque a citare altre opere di questo scultore che, pensate, colpì moltissimo Canova. Canova tentò di comprare questa statua, non ci riuscì, allora disse: vorrei dare 10 anni della mia vita per essere bravo come San Martino. Peccato che San Martino poi continuò la sua carriera, pensate, a fare le statue dei presepi napoletani. Si specializzò in questa statuaria molto semplice, tra l'altro facendo solo le teste, le mani e i piedi, perché il resto veniva fatto con la stoffa, e non è passato alla storia. Solo questa celebre scultura ce lo fa ricordare come tra i geni della grande statuaria e scultura barocca italiana.